La Casa delle Donne compie 30 anni e per festeggiare decide di realizzare un murales per dire no alla violenza. Perché avete scelto questa forma espressiva per festeggiare? Ma quest'anno noi facciamo da 15 anni un festival, diciamo un festival contro la violenza che si chiama Festival della Violenza Illustrata. E quest'anno con il lockdown, con la situazione diciamo di difficoltà che avremo, abbiamo detto facciamo una cosa pubblica che rimane un dono alla città, un messaggio alla città, uno spazio pubblico che dia un messaggio duraturo, che coinvolga un po' tutte le donne e della cittadinanza in questa forma, diciamo, artistica che ancora non abbiamo sperimentato. A Bologna ci sono diverse murales, se pensiamo in Bandiera, se pensiamo a Umberto Eco che hanno fatto da poco, oppure tantissime murales più sociali, più politiche, e noi ci inseriamo con questo murales femminista, perché vogliamo dare un messaggio forte alla città di un valore, diciamo che non è così condiviso ancora in tantissime parti della popolazione che hanno pregiudizi e considerano la violenza contro le donne come una cosa fatale senza prendere coscienza. Questo progetto può essere sostenuto tramite un crowdfunding. Come ci si può Esatto. accedere? Siccome siamo un'associazione, come sapete, Onlus, che vive sì di finanziamenti, convenzioni col comune e con altri enti, però siamo sempre un'associazione con pochissime risorse e molti di noi sono volontari e lavorano come attiviste. E quindi per pagare le artiste, che il collettivo CIP, che a Bologna è molto conosciuto, sono ragazze, donne, femministe, artiste, lavorano col collettivo Toulet, chiaramente è giusto pagarle, e noi abbiamo sottoscritto questo crowdfunding che è una raccolta fondi di ampio spettro e chiediamo a tutti e tutte di fare una donazione che può essere anche 10 euro, 20 euro, però chiediamo che tutti lo facciano, tutte quelle che pensano che la violenza contro le donne va combattuta. È un gesto concreto che si può fare dal sito direttamente e sicuramente un modo per sostenere una cultura contro la violenza. Si può avere già qualche anticipazione sul soggetto che sceglierete per il murales? Avete già qualche idea? Sì, noi non possiamo ancora dire il muro perché non abbiamo ancora l'autorizzazione. È abbastanza complicato a Bologna avere un muro pubblico, vogliamo un muro importante che sia visibile, che dia un'impronta alla città, ma non abbiamo ancora le autorizzazioni. Sul soggetto, il collettivo con cui noi lavoriamo, appunto, Toulet, hanno elaborato un'idea di una rete di donne, una rete perché noi siamo una rete, le donne che escono dalla violenza hanno bisogno di una rete di altre donne, una rete che lega le donne a altre donne, quindi con dei fili, diciamo, soprattutto una rete di donne che lavora contro la violenza. Ci rivolgiamo a tutti i tipi di donne, a tutte le comunità, quindi sarà anche con altre lingue, viene espresso questo concetto anche con altre lingue, e poi la parte creativa è una sorpresa perché comunque le artiste hanno espresso la loro creatività, ma un murales comunque che ha un contenuto molto comprensibile, chiunque lo veda possa capire il contesto. Certo, come ultima domanda ti volevo chiedere com'è cresciuta e com'è cambiata anche in questi 30 anni che sono passati la Casa delle Donne. Ma quando abbiamo iniziato, diciamo, Bologna era una città che pensava che la violenza alle donne non fosse un problema, perché comunque era una città di quelle italiane dove le donne lavoravano, cioè una città universitaria, le donne studiano, asili nido, emancipazione, quindi sembrava che violenza domestica, soprattutto a parte stupri, violenza sessuale, che è sempre stata in tutte le città, in tutto il mondo, sembrava la violenza, maltrattamento, violenza fosse assolutamente non visibile e che non ci fosse. Poi il primo anno che abbiamo aperto c'erano più di 350 donne che si sono rivolte alla Casa delle Donne. Adesso sono 650 donne che si rivolgono alla Casa delle Donne, ma non perché la violenza a Bologna fosse aumentata, ma perché c'è più sensibilità e sicuramente le donne parlano prima e non accettano più un livello di sottomissione e di violenza. Sto parlando anche di violenza psicologica, non dovete Certo. pensare solo violenza fisica, ma sottomissione, violenze psicologiche. La città è cambiata molto, la sensibilità intorno a questo tema è aumentato, si parla molto di più, ma tuttora ci sono tante difficoltà per le donne, non solo dalla polizia, non solo dai tribunali, insomma ci sono ancora tantissimi pregiudizi e difficoltà e una donna fa ancora tanta fatica. Posso solo far l'appello, andate su Produzione dal Basso, che è la piattaforma che ci ospita, e cercate Casa delle Donne. Vedrete che trovate un link, è molto semplice, e fate una piccola donazione che sostiene questo progetto. Finora abbiamo raccolto 620 euro, siamo già molto felici, ma vorremmo arrivare a 3.000. Quindi un appello a tutti. Grazie.